La Cudi Podcast. Dialoghi sul cospirazionismo a partire dal libro di Volume 1, La Cudi Complotto. Edizione Allegre, Roma, 2021. Ottava puntata. Allora, benvenute a tutti e tutte per l'ultima, per il gran finale, diciamo, di questo festival di tre giorni di quest'anno, dell'edizione di quest'anno di Contrattacco. Io sono Giulio Calella di Edizione Allegre e ci tenevo intanto già in apertura di questa ultima iniziativa, visto che sono tre giorni che siamo qua e discutiamo, ma ci tenevo a ringraziare intanto i compagni e le compagne di Scoop che hanno fatto, organizzato, diciamo, fisicamente questo spazio, hanno fatto i turni, ci hanno cucinato e quindi li ringraziamo moltissimo per tutto il lavoro fatto, e ringraziare i compagni e le compagne di Controtempo che ci permettono anche di andare in diretta streaming, in particolare stasera che avevamo un numero di prenotazioni superiore, diciamo, alla capienza che ci eravamo dati per gestire un distanziamento anche in uno spazio comunque grande come questo. Quindi intanto grazie a tutte e tutte, era la prima cosa che volevo dire. E quest'ultima iniziativa è la presentazione del libro, diciamo, sicuramente più importante che abbiamo pubblicato quest'anno e forse il più importante, diciamo, nella storia anche della nostra casa editrice, che è il libro appunto di Vuminguno, La Cudi Complotto, che è tra l'altro il libro che ha ispirato la stessa parola con cui abbiamo il nome che abbiamo dato, la parola intorno al quale abbiamo costruito il programma di questo terzo giorno di Contrattacco, che è appunto Reincanto, perché il libro di Vuminguno è un'inchiesta, diciamo, narrativa sul fenomeno di Quanon, ma è anche una lunga dissertazione sulla storia, insomma, delle teorie, delle fantasie di complotto, delle teorie cospiratorie e di come in qualche modo fanno parte delle narrazioni diversive utili al sistema per distogliere l'attenzione dalle contraddizioni centrali della società in cui viviamo, del sistema capitalismo, del sistema capitalista, delle disuguaglianze che in qualche modo crea, per spostare l'attenzione altrove. Ma, diciamo, l'argomentazione forte del libro è appunto che non basta semplicemente fare il debunking e dimostrare la falsità di alcune fantasie di complotto, appunto l'inconsistenza di alcune fantasie, ma il punto è riuscire a raccontare altre storie, che è un po' lo slogan anche della nostra casa editrice. E quindi questo libro in qualche modo per noi è il finale di questa tre giorni, proprio perché prova a guardare in questa direzione. La presentazione del libro in realtà sarà un dialogo, io finisco la presentazione e mi siedo tra il pubblico. Sarà un dialogo tra Gad Lerner, giornalista che non ha bisogno di presentazioni attualmente al Fatto Quotidiano, che proprio sul Fatto Quotidiano ha scritto una bellissima recensione, nonché la prima recensione uscita, mi pare il giorno stesso dell'uscita del libro, e anche per questo lo ringraziamo molto di essere qua con noi. E pensiamo che tra l'altro questo dialogo con Roberto, che tra l'altro Roberto Vuminguno ha online fatto una serie di podcast, di dialoghi a due, appunto su molti dei temi che il libro solleva, perché ne solleva moltissimi, e per noi questo è anche un dialogo a due che continua, diciamo, quello che è stato la Cudi Podcast, così l'abbiamo chiamata in queste settimane, e quindi è un dialogo a due tra Gad Lerner e Vuminguno. E quindi grazie ancora e passo la parola a Gad. Come vedete è una catena di montaggio per noi stasera, lavoriamo a cottimo, e botta e risposta, meglio fare così, per dirti una cosa e per farti una domanda. Quando è uscita la recensione sul Fatto Quotidiano, non credo che ti stupirà sapere che mi sono arrivate diverse mail e diverse lettere piuttosto incazzate, che dicevano: sì, vabbè, Cannon, vabbè, Trump, vabbè, ci sono i matti, che raccontano la pizzeria di Washington nei cui sotterranei Hillary Clinton e quant'altri torturavano e violentavano con pratiche sadopedofile i bambini, tutte esagerazioni, ma non farei il furbo proprio tu, oltretutto, col nome e cognome che porti, con le tue amicizie nell'establishment italiano, non farei il furbo, perché invece lo sappiamo tutti che Bill Gates, lo sappiamo tutti che George Soros, lo sappiamo tutti che le case farmaceutiche, e dunque non usare Wuming per negare il nostro bisogno di, come dire, riconoscere la capacità di sviluppare complotti da parte del potere. Noi siamo anticapitalisti e quindi abbiamo anche il coraggio di denudarli. Questo, diciamo, nel pubblico del giornale per cui scrivo è presente, è diffuso, è un atteggiamento con il quale credo tu ti sia egregiamente confrontato, specificando più volte nel corso di questo tuo racconto, che è appassionante, come il cospirazionismo non sia un esclusivo della destra, niente affatto. La domanda dalla quale partirei è il bisogno, se lo racconti anche a tutti loro, perché qui è, come dire, è uno dei punti d'esordio del tuo lavoro. Giugno 2018 tu hai la spiacevole sorpresa di scoprire che la vostra Q, tradotta in tante lingue, il vostro manuale di gioco, la Tablisset, sono diventate qualche cosa che sull'altra sponda dell'Atlantico viene cavalcato da qualcuno, e fai dei tweet. All'epoca dici ancora usavate Twitter e avete smesso, cioè avete dovuto misurarvi con un cospirazionismo che sembrava prendervi a modello. Com'è? Allora, sì, la questione è spinosa, perché effettivamente questo libro non esisterebbe se non ci fosse stata questa chiamata da parte di QAnon, in un certo senso, no? Se non mi fossi sentito, in quanto coautore del romanzo Q, coinvolto, implicato, tirato per la giacca da quello che poi è il mito delle origini di QAnon. Nell'ottobre del 2017, su una image board, su un forum di discussione normalmente associato alla estrema destra americana, all'alt-right, compaiono alcuni messaggi criptici, enigmatici, alcuni dispacci firmati semplicemente Q, dove si dice che l'arresto di Hillary Clinton è imminente, e pian piano, messaggio dopo messaggio, si compone un disegno, si parla di un'imminente battaglia tra il bene e il male, dove il bene sarebbe Donald Trump e il male sarebbe il cosiddetto deep state, che lui combatterebbe. È imminente una tempesta, the storm, una sorta di rivoluzione, di putsch rivoluzionario da parte di Trump, arresterà gran parte dell'elite che domina gli Stati Uniti, sia esponenti del Partito Democratico, sia star di Hollywood, celebrità varie, li porterà tutti a Guantanamo e là verranno processati e giustiziati. Questi dispacci sono scritti da una persona, da un anonimo, che dice di essere un funzionario di altissimo livello del governo federale statunitense, dice di essere al corrente di informazioni riservatissime e di avere una missione che è quella di fare gocciolare verso il basso nella comunità dei patrioti che sostengono Trump parte di queste informazioni per preparare i più avveduti e i più coscienti dei sostenitori del Presidente a questo imminente cambio di scenario, a questa prospettiva rivoluzionaria. Dopo questa tempesta ci sarà il grande risveglio, the Great Awakening, cioè una società finalmente liberata dalle tossine liberal e quant'altro, e bisogna prepararsi, essere pronti a questo momento. Sono però dei dispacci, degli indovinelli enigmatici che vengono inviati, e si forma una comunità di persone che cominciano a interpretarli, e interpretando questa narrazione si arricchisce di sempre più dettagli, finché non viene fuori che l'elite che domina il mondo è in realtà una società segreta di pedofili satanisti che tengono milioni di bambini schiavi in basi sotterranee profondissime sotto i piedi degli americani. Questi bambini schiavi vengono seviziati, torturati quotidianamente, violentati, e il loro sangue viene prelevato per trarne una sostanza che si chiama adrenocromo, che questa elite, che viene chiamata la Cabal, con un'assonanza con la Cabala, quindi con un evidente rimando antisemita, userebbe come ringiovanente. In realtà l'adrenocromo è un derivato dell'adrenalina, è una sostanza molto più prosaica e normalissima che si trova anche nelle pastiglie che si prendono per curare le emorroidi, quindi stiamo parlando in realtà di cose molto più basse e insomma meno magniloquenti, no? Però per loro invece l'adrenocromo è un ringiovanente. Allora, noi abbiamo scritto nel 99, abbiamo pubblicato nel 99 un romanzo in cui un anonimo che si firmava semplicemente Q sosteneva di essere ben piazzato nella struttura di potere del suo tempo, stiamo parlando dei principati tedeschi degli anni 20 del XVI secolo, dice di essere al corrente di un imminente scontro risolutivo tra bene e male, una battaglia finale tra l'esercito dei vescovi e dei principi che difende lo status quo e invece l'esercito dei contadini insorti guidati da Thomas Munzer, un'insurrezione di massa iniziata nel 1524 partendo dalla Svevia. Questo Q manda dei dispacci, appunto a volte criptici, pieni di citazioni bibliche, ai patrioti. Questi patrioti sono appunto i contadini insorti, e in particolare lo stesso Munzer, e gli dice che bisogna precipitare gli eventi, anticiparli, andare verso questo scontro risolutivo che avverrà nella piana di Frankenhausen in Turingia, e dopodiché, quando le forze del bene avranno vinto, ci sarà un grande risveglio, una società appunto libera dalle inuguaglianze, dai vincoli feudali e quant'altro. Quindi, in realtà, la narrazione da cui parte il primissimo nucleo di QAnon è presa di pacca dal nostro romanzo Q. E quindi quando nel giugno del 2018... Quindi è un libro scritto per autodifesa. Sì, esattamente. Quando ci arriva nel giugno 2018 questa prima mail che ci informa dell'esistenza di QAnon, ovviamente andiamo a vedere di che si tratta e capiamo che chi ha iniziato questo, che non si è ancora capito, un gioco, una burla, una psyop, come si dice in inglese, o semplicemente cazzeggio, perché su 4chan c'è anche molto cazzeggio, loro lo chiamano shitposting, appunto pubblicare merda, e sicuramente quella prima persona ha letto il nostro libro. Le coincidenze sono troppe e troppo rilevanti. Succede poi che nell'andare a indagare QAnon riprendiamo tutta una serie di discorsi ed analisi fatti ai tempi di quando ci chiamavamo Luther Blissett e facemmo delle campagne di controinformazione su delle fantasie di complotto a tema pedofilo satanico, delle campagne di solidarietà a innocenti in galera, e quindi mi rendo conto che è il momento di fare una sintesi di 25 anni di riflessioni sulle narrazioni tossiche, sul cospirazionismo, e mi metto di buona lena a scrivere questo libro, che non è stato certo facile da scrivere. Durante la stesura di questo libro, studiando QAnon, questa è l'ultima cosa che dico per ora, ho scoperto che molto probabilmente a ispirarsi al nostro libro Q è stato solamente la primissima persona che ha scritto le cosiddette gocce di Q, le Q-drops, E questa fase in cui le ha scritte lui è durata nell'ottobre, per tutto ottobre e novembre del 2017, dopodiché qualcun altro, questo ormai è il risultato di tutte le inchieste fatte, anche oltreoceano, qualcun altro ha preso in mano tutta la community, la firma Q e queste cose qua, l'ha spostata da 4chan a un sito ancora più estremo che si chiamava 8chan, che non esiste più, e lì, anche secondo un'analisi testuale fatta da una società che si occupa di quello, proprio di fare comparazioni stilistiche al computer, la mano che scriveva le gocce di Q è cambiata. Oggi si sa anche nome e cognome probabilmente di chi da allora ha scritto i messaggi firmati Q, è un certo Ron Watkins che vive nelle Filippine, un esponente dell'estrema destra statunitense che vive nelle Filippine. Ecco, secondo noi da quel momento in avanti nessuno si è più ispirato direttamente al nostro romanzo, solamente l'iniziatore di questa storia, però è rimasta la Q. Ogni volta che nelle mobilitazioni di QAnon compariva quella Q, nei cartelli, negli striscioni o nelle grafiche che c'erano online, chiaramente quella Q lì, secondo noi, noi siamo ancora convinti di questo e non siamo i soli ormai, anche un'inchiesta puntata fatta dalla HBO negli Stati Uniti lo ha detto, quella Q lì viene direttamente dal titolo del nostro libro. Il nostro rapporto come Wuming con QAnon è lo stesso di un tizio al quale rubano la macchina per fare una rapina, cioè nel senso che, però è più sottile di così, perché un'opera d'arte è una macchina che tu scrivi perché venga rubata, nel senso che una volta che tu hai scritto un libro, una canzone, un film e va nel mondo, non solo non puoi controllare, ma nemmeno in fondo devi controllare come viene riutilizzata nella cultura, eccetera, sarebbe impossibile, come cercare di sbucciare le uova mentre bollono nell'acqua, non, è un'operazione che non puoi fare, no? E quindi l'altro paragone che facciamo, si parva Licet senza volerci paragonare a Lennon e McCartney, il nostro rapporto con QAnon è come quello dei Beatles con Charles Manson. Charles Manson diceva di aver agito, di avere commissionato quelle stragi dopo aver ascoltato due canzoni dei Beatles che erano Revolution 9 e Helter Skelter. Lui diceva che in quelle canzoni i Beatles gli davano delle indicazioni dirette sul da farsi. Allora, è colpa di Lennon e McCartney se Manson ha ammazzato quella gente? Ovviamente no, e a maggior ragione quando qualcuno ci dice: ma voi come vi sentite che il vostro romanzo è stato usato per fare quelle cose lì? Come voi che ci sentiamo? L'arte circola, la cultura circola, i flussi vanno avanti e noi non li possiamo controllare. Diciamo che avete azzeccato il titolo. Quello poco e, che, e diciamo anche che c'è una forte, fortissima domanda diffusa di teorie del complotto, no? Già prima vedo qui che tu hai segnato proprio la data, 5 novembre 2016, l'attuale presidente della RAI, cioè più importante azienda culturale italiana, che si chiama Marcello Foa, scriveva un tweet sulle cene sataniche a base di mestruo, sperma e latte di donna a cui avrebbe partecipato Hillary Clinton. Ok? Questo è l'attuale presidente della RAI, per capirci. E sappiamo bene che questo bisogno di teorie del complotto, su cui prima di voi aveva indagato Umberto Eco nei suoi romanzi, e anche lì preso maledettamente sul serio nel bisogno di equivocarlo e di equivocarne la denuncia, ci si misurava appunto con che cosa? E qui ti restituisco quasi subito la parola, con degli stereotipi antichissimi che devono essere rinnovati, così come continua ancora oggi, nonostante il Poraimos, cioè lo sterminio e la deportazione di quelli che io continuo a chiamare zingari, loro si incazzano, rom, sinti e camminanti, ma continua a essere fortemente radicata la convinzione che gli zingari rubano i bambini, e vai a cercare nel casellario giudiziario italiano un bambino sequestrato da nomadi, troverai al contrario, ed è interessante, delle nomadi che facendo accattonaggio molesto per spaventare delle mamme e per convincerle a dargli una moneta, ci sono stati dei processi in questo senso, per spaventarle hanno usato il marchio d'infamia che grava su di loro, gli hanno detto dammi un soldo se no ti porto via il bambino, terrore, come dire, usi lo stereotipo di cui sei vittima. Allo stesso modo c'è l'antichissima accusa del sangue, che oggi va attualizzata in qualche modo, che riguarda gli ebrei. Gli ebrei sono colpevoli, c'è qui Crescenti che sta facendo un lavoro su San Simonino di Trento, che addirittura è stato elevato alla santità in quanto vittima degli ebrei che in preparazione del Pesach, la Pasqua ebraica appunto, dovrebbero impastare la farina del pane azzimo con il sangue di un bambino gentile, cioè non ebreo. Quindi un'atrocità che colpisce le vittime più fragili, ok? Questo va attualizzato e qua non in qualche modo lo attualizza, ma sono anche altre le teorie del complotto di cui oggi c'è bisogno. Io ricordo l'impressione che ho provato andando in un bellissimo castello nella Francia occidentale, nei pressi del confine con la Spagna, a incontrare il filosofo René Camus, omosessuale dichiarato, che si dichiara pacifista e un puro, diciamo, teorico, che è quello che per primo ha scritto della sostituzione etnica e ha raccontato di come in qualche modo il fenomeno migratorio verso l'Europa sarebbe da compararsi con la Shoah in quanto sterminio in atto del popolo europeo e delle sue identità. Questo signore che vive in mezzo alle sue opere d'arte in un castello con il suo compagno o marito che sia, quando viene perpetrata una strage come quella del neozelandese di Breivik in Norvegia, che parte dalle sue teorie della sostituzione etnica, ti dice: ma insomma, io che cosa c'entro? Io mi guardo bene da pensare cose del genere, non accuso Soros in persona di essere il burattinaio, figuriamoci, ho tanti amici ebrei, come si dice sempre in questi casi. Ma appunto, com'è che teorie antichissime, stereotipi antichissimi, nati in Europa, nati anche in Italia, vengono declinati in modo nuovo da Quannon? Sì, allora, bisogna distinguere, e lo faccio nel libro dividendo tra una prima parte e una seconda, le dinamiche ultracontemporanee tipiche del capitalismo digitale e globale del XXI secolo, della sfera dei social media, le dinamiche di propagazione, disseminazione, formazione di comunità che hanno plasmato QAnon, appunto, che sono molto XXI secolo, molto contemporanee e che hanno a che fare con gli algoritmi dei social media, con invece i nuclei tematici e narrativi di QAnon, che invece sono antichissimi. E lì c'è la seconda parte del romanzo in cui provo a tracciare la genealogia, anzi parlo di sequenziare il genoma, uso una metafora virologica perché va per la maggiore, il resto del libro l'ho scritto, gran parte del libro l'ho scritto in piena emergenza pandemica e quindi ho anche assorbito e restituito un po' di suggestioni e parti di immaginario. In quella parte io parlo di un sostrato nella cultura europea che continua ad agire, continua a operare, continua a influenzarci e che noi ogni tanto vediamo risalire. Perché hanno così successo a partire dagli anni 90 in Italia teorie fantasie, io poi le chiamo fantasie di complotto, a sfondo pedofilo satanico, satanico esoterico, basate su rituali notturni, sacrifici umani e cose del genere. Hanno molto successo perché la nostra cultura non ha mai fatto i conti col suo sostrato cattolico, inquisitorio, controriformista. Vorrei far notare a chi pensa, ad esempio, chi ha ascoltato finora può pensare che l'accusa del sangue sia qualcosa di associato al Medioevo, che sull'Osservatore Romano sono usciti articoli sull'accusa del sangue contro gli ebrei fin dentro il XX secolo, a lungo, no? E sulla civiltà cattolica, che all'epoca, ancora più dell'Osservatore Romano, all'epoca, diciamo, della cattività papale, subito dopo l'unità d'Italia, esprimeva direttamente quella che era la posizione del pontefice. Sulla civiltà cattolica sono uscite centinaia di articoli che accusavano gli ebrei di, appunto, dissanguare i bambini cristiani a Pasqua e di usare il sangue come ingrediente e quant'altro. Quel tipo di narrazione che QAnon recupera e trasforma, appunto, nella storia dell'adrenocromo e quant'altro. In realtà noi abbiamo, soprattutto in Italia, ma in realtà in tutto il continente, tutti questi sedimenti sotto i piedi e tutti questi materiali mitologici, li avrebbe chiamati furioiesi, che sono sempre riattivabili e vengono riattivati. Abbiamo la caccia alle streghe, secoli di caccia alle streghe basata su fantasie di complotto, la fantasia di complotto del Sabba, di cui si è occupato Carlo Ginzburg. Abbiamo le persecuzioni contro gli eretici, anch'essi basati su fantasie di complotto. Abbiamo tutto l'antigiudaismo cattolico, secoli di antigiudaismo e di accusa del sangue, che poi con la modernità nell'Ottocento diventano il complotto giudaico-massonico, c'è questo binomio. E abbiamo tutto questo sotto i piedi, abbiamo secoli di attività dell'Inquisizione, chi era più cospirazionista degli inquisitori. Abbiamo la Controriforma, che appunto inasprisce, stringe tutte le viti, cioè la Chiesa è minacciata da quanto sta succedendo nel Nord Europa, e ci abbiamo scritto Q su questo. Tutto questo ce l'abbiamo sotto i piedi. Non dovrebbe stupire che anche istituzioni come la magistratura in Italia molto spesso abbiano trasformato fantasie di complotto a tema esoterico satanico in veri e propri teoremi giudiziari negli impianti accusatori di alcuni processi. L'altro giorno abbiamo visto uno degli estremi sviluppi del caso Veleno, quando il cosiddetto bambino zero, che nella serie di Pablo Trincia è chiamato Dario, finalmente si è espresso in prima persona dicendo anche il suo vero nome, si chiama Davide, e ha rivelato che lui ha fatto mandare in galera i suoi genitori, amici di famiglia, estranei totali, ha coinvolto altri bambini, semplicemente perché, pressato dai continui interrogatori delle psicologhe, dei magistrati, lui si è inventato tutte quelle storie aggiungendo sempre più particolari. Ah, scusa che ti interrompo, perché approfitto del fatto che citi la magistratura per farti la domanda di attualità su Gratteri, via. Cioè, come ti spieghi che un magistrato importante, impegnato nella lotta contro l'andrangheta in prima fila, firmi la prefazione di un libro che non conteneva frasi esplicitamente antisemite che i suoi autori hanno detto in altre sedi, ma che aveva proprio una matrice cospirazionista nell'interpretazione del COVID, della pandemia, ad esempio? Guarda, io ritengo che una forma mentis cospirazionista nella nostra magistratura sia diffusissima. Sia diffusissima, proprio per come è costruito il nostro diritto, il nostro rito giudiziario, per il ruolo che è stato dato ai magistrati, per la storia del nostro paese, che effettivamente è un susseguirsi di complotti veri, non di quelli immaginari, barocchi, per il dominio universale del mondo, ma complotti come le trame nere e cose del genere. E io credo che la magistratura, i nostri giuristi, le riviste di critica del diritto non abbiano mai fatto davvero i conti con questa tendenza del nostro potere giudiziario a vedere complotti dove non ci sono e magari a ignorarli dove ci sono. Abbiamo avuto dei casi clamorosi. Noi, cioè, voglio dire, ha intervistato più volte Toni Negri. Toni Negri era il telefonista delle BR per alcuni, no? Cioè, la voce che era di Mario Moretti per alcuni in realtà era di Toni Negri, e Potere Operaio è stato accusato di essere come gli Illuminati di Baviera, cioè di aver finto di essersi sciolto per in realtà essere la cupola di tutta la lotta armata in Italia. Il teorema Calogero è a tutti gli effetti una fantasia di complotto, ne presenta tutte le caratteristiche che io nel libro provo a elencare, ma ancora oggi c'è chi sugli anni 70 va avanti a fantasie di complotto dicendo che le Brigate Rosse erano completamente eterodirette, erano praticamente delle creature dei servizi segreti, eccetera. C'è una certa magistratura che su queste cose qui ha scommesso tantissimo, come c'è una magistratura che ha seguito a partire dagli anni 90 le cosiddette piste esoterico-sataniche facendo dei danni pazzeschi, il caso dei bambini di Satana di cui mi sono occupato io a Bologna, il caso Veleno. Qui abbiamo dei PM che si innamorano di fantasie di complotto e le trasformano in impianti accusatori di processi, triturando vite, macinandole. E... A questo punto facciamo gli screanzati, come dire, e visto che siamo in ambiente centri sociali, posso dirlo, come ci spieghiamo che il cospirazionismo sia radicato anche a sinistra e nella sinistra antagonista, per cui lungi da me fare la vittima, perché, come dire, sono una persona troppo fortunata per poterselo permettere, queste esibizioni che mi danno un fastidio terribile di vittimismo, ma la famosa definizione l'antisemitismo è l'anticapitalismo degli imbecilli, come dire, io potrei descrivervela nel dettaglio, nelle modalità in cui ti si rivolge, per il fatto che hai anche, come dire, la sfacciataggine di dichiarare gli amici che hai tra i padroni, e poco importa il lavoro, diciamo, che fai da una vita sulla condizione operaia, sia in qualsiasi forma, eccetera. Resta in un paese in cui ci sono stati un sacco di complotti veri, il paese delle stragi, il paese della P2, insomma, so bene dove questa cosa venga coltivata, ma non è solo italiana. Perché c'è ancora un forte cospirazionismo di sinistra, non solo qui? Il motto apocrifo di August Bebel contiene già incapsulata la risposta: der antisemitismus ist der socialismus der dummenkerls, il socialismo degli stupidi, dove socialismo non vuol dire il modello socio-economico a cui si aspira, ma proprio il movimento reale e la lotta di classe degli stupidi, degli imbecilli, di solito si traduce in italiano, nel senso che è un movimento diversivo, al posto dei padroni vedi gli ebrei, e questo spostamento, questo slittamento, questa narrazione diversiva è in realtà operante in gran parte delle fantasie di complotto, che sono effettivamente anche l'ebreo come sublimazione del padrone, come sublimazione del padrone. Infatti Soros è perfetto in questo, no? Sì, sì, ma poi alcuni sono anche padroni veri, ma il punto non è quello, che diventano praticamente il simbolo dei simboli, riassumono in sé tutto. E la fantasia di complotto, nella mia lettura, è quasi sempre anticapitalismo fuorviato, che parte effettivamente da un malcontento reale, da dei nuclei di verità, ma quei nuclei di verità vengono immediatamente spostati, pervertiti, vengono portati a conclusioni in realtà mostruose, e quindi le energie potenziali per il cambiamento vengono incanalate in direzioni nelle quali verranno dissipate o strumentalizzate a scopi addirittura contrari a quelli professati in partenza. Quindi questo concetto di nucleo di verità, secondo me, è fondamentale anche quando si cerca di smontare le fantasie di complotto. Molti di quelli che fanno il cosiddetto debunking scelgono di non occuparsi volutamente assolutamente, perché è imbarazzante, del nucleo di verità che sta sotto anche le fantasie di complotto più vaneggianti, più odiose, eccetera, rimane negletto quel nucleo di verità e ci si preoccupa solamente di dire che le fantasie di complotto sono false, che quelle affermazioni sono infondate, che quei ragionamenti sono illogici, però in questo modo non capisci da quale disagio partano e quale malcontento, frustrazione reale in qualche modo soddisfino, cioè fingano di soddisfare, intercettano quelle energie e danno una risposta per noi inaccettabile, ma siamo noi che dovremmo intercettarle prima che subiscano questo trattamento e fornire delle risposte differenti e portare quel malcontento in una direzione dove sia più produttivo, insomma renderlo più fecondo. E quindi narrazione diversiva è l'altro concetto che uso, che questo come termine è un pochino più difficile, è l'omeostasi del sistema, cioè l'insieme dei processi e delle procedure con cui il sistema si difende, tutela se stesso e rimane stabile. Alla fine, questo lo dimostrano anche diversi studi di psicologia sociale, con tutto il loro atteggiarsi a sovversivo, le fantasie di complotto in realtà hanno un effetto conservatore, stabilizzante del sistema, perché impediscono, tolgono ossigeno intanto alla critica vera. Se uno vuole criticare Bill Gates, ne ha ben donde, perché ha veramente tanti motivi per criticarlo. La sua idea di agricoltura che sussidia, che porta avanti, che promuove pesantemente nel sud del mondo, è un'agricoltura tutta a misura di multinazionale, impone un certo modello, sradica le agricolture locali di sussistenza, i piccoli mercati, eccetera, e investe pesantemente sulla proprietà intellettuale, la proprietà intellettuale delle sementi, eccetera, eccetera. La sua idea di sanità è basata proprio sul mercato, è un'idea neoliberale, il dominio delle multinazionali, i brevetti, e l'abbiamo visto il problema dei brevetti per quanto riguarda i vaccini e tutto quanto, il suo filantrocapitalismo in realtà è una mascheratura del dominio neoliberista. Quindi se noi volessimo criticare Bill Gates per dei motivi reali ne avremmo ben donde, ma quando lo facciamo veniamo immediatamente associati a quelli che dicono ma allora sei come quelli che dicono che Bill Gates mette i microchip dei vaccini, e l'ossigeno alla critica fondata che il cospirazionismo toglie, ci succhia l'aria intorno e ci riduce il nostro margine di manovra. È per quello che va sradicato, però non lo si fa semplicemente dicendo che quelle cose sono false, che chi ci crede è un imbecille. E qui arrivo alla parte iniziale della tua domanda. Nessuno di noi può scagliare la prima pietra, né a destra né a sinistra, nei movimenti sociali, fascisti, antifascisti, eccetera, perché la forma mentis cospirazionista è trasversale. Chiunque di noi, almeno una volta della vita, ha creduto ad almeno una fantasia di complotto, perché qui quegli errori cognitivi, quei pregiudizi cognitivi, quelle fallacie logiche, quella tendenza dei social, tra l'altro oggi, ad alimentare queste fallacie logiche e a rendere più rapido il ciclo degli errori e a farci cadere nelle buche del coniglio, come vengono chiamati i luoghi dove ci si radicalizza in senso cospirazionista, ecco, tutti noi siamo in balia potenziale di questi processi, non è che è una questione di essere stupidi. Per questo anche io critico, nonostante dico che il contenuto è reale e quell'aforisma è utile, io non credo sia questione di imbecillità. Non è il socialismo degli imbecilli, è il surrogato di socialismo che questo sistema offre a persone che si trovano momentaneamente o permanentemente prive di strumenti, che sono in balia del loro dolore o della loro disperazione o della loro rabbia o del loro odio, ok? Ma non è questione di stupidità, perché tra l'altro ci sono studi che dicono che non è vero che chi crede alle fantasie di complotto è più ignorante degli altri. Ci sono alcune fantasie di complotto che ad esempio spopolano tra persone che sono più istruite della media, persone che hanno tutti gli strumenti potenzialmente, eppure cadono vittima di questi bias cognitivi, come si chiamano in inglese. E non è un problema che riguardi solo la destra, appunto c'è un capitolo, giustamente ricordava Gad, che si chiama "Il problema non è solo a destra". Se noi guardiamo la storia della sinistra, cioè con alcuni picchi come le purghe staliniane del 37, ma anche, lo accennavo prima, a come il PC interpretava tutti i movimenti alla propria sinistra negli anni 70, come il PC ha raccontato il 77 bolognese, noi di cospirazionismo ne troviamo a quintalate. Ecco. Infatti c'è un capitolo che ha un titolo breve ma diciamo di ottima sintesi, quando dice irrazionale ma logico. Ci sono delle teorie che ci fanno molto comodo perché, come dire, nella loro fantasia mettono a posto la nostra interpretazione della realtà. È irrazionale ma logico. E difatti, quando nell'ultima parte del libro tu immagini un dialogo, adesso racconta tu bene chi sono i protagonisti di questo dialogo molto anche divertente che avviene in un caffè intorno alle teorie del complotto, e vai alla ricerca delle sue matrici culturali, il tema è proprio quello dello scontro tra razionalità e irrazionalità. Qui abbi pazienza che stavolta mi dilungo un attimo io, perché uno dei dialoganti si richiama con molta ragione alla rivoluzione francese e dice: c'è la rivoluzione francese, il cospirazionismo moderno nasce per spiegare la rivoluzione. Quasi tutte le fantasie di complotto moderne risalgono a un periodo che va da fine XVIII secolo a inizio XX, nascono per reazione al grande terremoto, per descriverlo come una mera congiura, seppure vasta. Da allora ci sono state quasi solo ricombinazioni di questo bisogno reazionario di confrontarsi con l'illuminismo e con addirittura il sommovimento sociale che al pensiero razionale si è combinato. Leggendo quel passaggio del tuo libro mi è venuto in mente un autore a me carissimo, è qui che vorrei spendere una parola in più, che se non sbaglio non è mai citato nel tuo libro, che si chiama Zev Sternel, è da poco scomparso. Non mi piace fare classifiche, molti lo definiscono il più grande storico del fascismo, ma insomma, se non è il più grande è uno dei maggiori, che ha una storia personale che starebbe bene qui dentro. E la voglio dire in una parola per tornare alla questione cruciale della rivoluzione francese, irrazionale ma logico, perché il pensiero reazionario nasce allora. Zev Sternel invece nasce in Bielorussia, è un piccolo bambino ebreo quando i nazisti nel 1941 invadono, uccidono i suoi genitori, lui scappa in un bosco. Da questo bosco viene recuperato dai partigiani che lo portano a una famiglia polacca che lo alleva come bambino cattolico e cristiano, poi da lì lo mandano alla fine della guerra in Francia in un orfanotrofio dove, sempre cattolico, dove finalmente nell'età dell'adolescenza apprenderà la sua origine, apprenderà da dove viene e che fine hanno fatto i suoi genitori. Lì decide a 15-16 anni di emigrare in Israele, dove diventerà uno storico di fama internazionale e dove diventerà anche uno dei grandi critici delle politiche del governo israeliano, a tal punto che poco prima della sua morte, che è avvenuta un anno fa, degli estremisti razzisti e fascisti israeliani fanno un attentato a casa sua, bruciano la porta di casa sua, cercano di ammazzarlo. Questo signore Zev Sternel ha scritto dei testi fondamentali sul pensiero reazionario, che nasce come controrivoluzionario e come rifiuto della razionalità illuminista, e dice che tutto si spiega in qualche modo da lì, e che questo ritroviamo ancora oggi nel millennio successivo, anche in quelli che vanno all'assalto del Campidoglio con l'elmo con le corna. Sì, potrei citare anche George Moss, che è un altro che ha fatto dei lavori fondamentali per molti versi, insomma, avvicinabili a quelli di Sternell. E poi un libro che ho citato di recente in una discussione online, Il modernismo reazionario, di Jeffrey Herf, uno storico americano che ha indagato il rapporto tra fascismi e tecnologie. E lui, insomma, tutti questi autori fanno notare che i fascismi, le culture reazionarie, non hanno problemi a usare i mezzi che la modernità gli mette a disposizione. Radio Maria sta sui social, però è proprio antimodernista, cita Barwell, e tra l'altro recentemente ha fatto scalpore il direttore di Radio Maria perché ha usato praticamente le stesse narrazioni di QAnon senza citare QAnon. Però noi vediamo i lefebvriani, le sentinelle in piedi, tutti questi movimenti che sono in realtà basati sul rifiuto della modernità intesa come razionalità emancipativa, che però sposano in pieno i mezzi che la razionalità strumentale gli mette a disposizione, quindi usano le tecnologie, usano i mezzi del mondo moderno. Quindi Jeffrey Herf già nei confronti del nazismo e del fascismo parlava di modernismo reazionario, diceva questi rifiutano i valori dell'illuminismo, rifiutano una razionalità emancipativa, rifiutano i lumi, rifiutano il portato della rivoluzione francese, tutto quanto, però si avvalgono di tutti i mezzi della modernità capitalistica, usano le tecnologie, semplicemente le mettono al servizio di quella che per loro è, con la N maiuscola, la nazione. Noi vediamo che QAnon è un fenomeno ultramoderno che usa le tecnologie più avanzate, che fa soldi grazie al merchandising su Amazon e con la monetizzazione di YouTube, e però al fondo ritroviamo quel rifiuto della razionalità emancipativa, appunto il rifiuto del mondo prodotto dalla rivoluzione borghese. E uno potrebbe pensare, ma sono incoerenti, no? Perché prendono della modernità quello che gli fa più comodo e rifiutano quello che invece non gli fa comodo. Ma non si può cercare coerenza né nella cultura di destra, secondo me, né nella forma mentis cospirazionista, perché questo richiamo alla coerenza è un richiamo a una logica in senso stretto che però non appartiene a queste narrazioni. Queste narrazioni hanno un altro tipo di logica, che è su un altro livello, che è il livello del mito. È il livello del mito, non è il livello del... E per questo anche lì andare a smontare razionalmente queste narrazioni per loro lascia il tempo che trova, perché... Questo bisogno di rapporto con il mito che fa sì che un Trump, un Bolsonaro o in Europa un Orban possano cavalcare teorie demenziali di questo tipo senza trarne discredito, ma al contrario vantaggio? E soprattutto senza che le accuse di incoerenza, che pure sono fondate, possono avere una qualche trazione. Nel caso di Orban ha potuto studiare grazie a Soros, cioè ha avuto rapporti con Soros davvero stretti, eccetera eccetera. Poi ad un certo punto ha avuto necessità di trovare il nemico esterno, questo gli è stato offerto in circostanze che io racconto nel libro, in Soros. Da quel momento Soros è diventato il nemico pubblico. Se uno gli fa notare, ma come, tu hai potuto studiare grazie a Soros e fino a due giorni prima non l'avevi mai attaccato, ma questa cosa non fa presa tra i suoi seguaci, perché appunto è un richiamo a una coerenza fattuale che però nel mondo del mito noi sappiamo non esiste. Ad esempio, se noi prendiamo il corpus della mitologia greca, vediamo che ci sono tante storie, tutte compresenti, in cui magari lo stesso eroe muore in un modo diverso, no? E però sono tutte compresenti all'interno del mito, perché non è quel tipo di coerenza che fa la forza del mito, ma è l'effetto complessivo, l'alone che tutte queste storie riescono a creare. Ok, e il mito ha una forza ancora oggi in un mondo apparentemente secolarizzato e tecnocratico e quant'altro, in realtà il mito sarebbe la macchina mitologica, direbbe Furio Iesi, più che il mito, la macchina mitologica continua a funzionare a pieno regime. È questo che noi dobbiamo capire, e le fantasie di complotto sono macchine mitologiche e come tali vanno affrontate, non semplicemente come discorsi falsi, perché questo sarebbe perdente. Ci sono, come dire, degli stereotipi, degli incubi collettivi. Tu parli, lo dici in inglese, moral panic, panico morale, che assume il tema della difesa dei soggetti deboli della nostra società. In Italia, nella propaganda della destra, sappiamo bene quale importanza rivesta la violenza sessuale praticata da immigrati nei confronti di giovani donne italiane. In questi giorni sapete le reazioni al processo di Desirée, ricorderete cosa ha significato a Macerata l'omicidio di Pamela Mastropietro, e in quel caso anche la sezione del suo cadavere per occultarlo, con pratiche che immediatamente sono state indicate come tipiche del voodoo e quant'altro. Questo è, diciamo, un meccanismo classicissimo di esprimere la metafora dell'invasione che inquina il nostro sangue passando attraverso la violenza sulle nostre donne. E poi ci sono i bambini, no? E poi c'è, come dire, l'isteria collettiva spesso collegata all'idea che i bambini possano diventare oggetto di desiderio sessuale, tant'è che questo dà luogo a reazioni collettive terribili. Qui appunto si mescolano i piani della realtà e della sua interpretazione. Il caso di Macerata è tipico, non c'è dubbio che lì è avvenuto un omicidio e non c'è dubbio che lì un cadavere è stato tagliato a pezzi. Tutto quello che ci è stato costruito intorno, certo, appartiene, diciamo, al lavoro di scavo che tu fai qui dentro. E sui bambini, sulla pedofilia, resta centrale? Sì, è centrale, più che mai. Questa è un'onda lunga che viene dagli Stati Uniti degli anni Ottanta, il moral panic sull'abuso rituale satanico. Attraversa l'Atlantico, dopo aver fatto danni enormi, aver mandato in galera innocente, aver distrutto famiglie, aver pilotato anche proprio tutta una ondata reazionaria nella cultura e censoria, negli anni 90 attraversa l'Atlantico con tanti casi che... Scusa che ti interrompo ancora, possiamo dire che anche la vicenda di Woody Allen più recentemente cavalca questa isteria, questo tema dei minori abusati come, come dire, spauracchio centrale? Ma diciamo che c'è una campagna contro Woody Allen a scoppio abbondantemente ritardato, che recupera delle storie che tra l'altro a livello di giudiziario, di magistratura, è sempre stato smentito, è stato prosciolto e quant'altro. A me stupisce l'ipocrisia di molti attori, attrici, eccetera, che pur sapendo benissimo queste storie, che sono vecchie di 30 anni, fino all'anno scorso hanno fatto film con Woody Allen e poi all'improvviso fingono di cadere dalle nuvole e dicono: io non farò mai più film con Woody Allen, e non hanno appreso alcuna nuova informazione rispetto all'anno prima. Insomma, ci sono delle cose che sono abbastanza fastidiose. Stavo dicendo prima, negli anni 90 noi viviamo quella stagione del moral panic sulla pedofilia nella seconda metà degli anni 90. Comincia nel 96, il caso dei diavoli della Bassa Modenese, di cui parla l'inchiesta Veleno, è pienamente dentro quella temperie, e lì c'è un crinale, cambiano proprio le abitudini delle persone in Europa e soprattutto in Italia. A partire dalla metà degli anni 90 certe cose che prima erano normali non lo sono più. Era normale vedere bambini girare da soli, non si vedono più a partire da quel momento lì. Era normale vedere bande di bambini in giro per le strade a giocare senza la supervisione diretta di adulti, da quel momento non succede più. Era normale, come lo era stato per me negli anni 70, andare a scuola elementare da solo a piedi. Questa cosa da quel momento lì non si è più vista, perché i bambini andavano scarrozzati, accompagnati ovunque, perché poteva esserci il pedofilo, il malintenzionato e chissà mai cosa può succedere. Anche a me da piccolo dicevano non accettare caramelle dagli sconosciuti, però si limitavano a quello, non accettare caramelle dagli sconosciuti. Non era una cosa fobica per cui, capito, qualunque sconosciuto può essere un pedofilo. E questa cosa tra l'altro ricade, come fa notare un personaggio del dialogo finale del libro, ricade molto sulle donne, c'è una sproporzione, no? Nel senso che sono quasi sempre le mamme che devono diventare taxisti e portare il bambino a scuola, andarlo a prendere a scuola, o portarlo al dopo scuola, o a danza, o a judo, o quant'altro. Non è proprio la qualità della vita delle donne che viene intaccata da questo clima di sospetto generale. Che Wolf Bukowski, tra l'altro, ha fatto notare la contemporaneità tra questo e l'inizio della retorica sulla tolleranza zero di Rudy Giuliani a New York. È tutto parte di un'unica onda securitaria, che però quando parte dai bambini è molto più forte, perché chi non vorrebbe proteggere i bambini, salvare i bambini? E così succede che nel 96-97, soprattutto in quel biennio, ma con un sacco di strascichi successivi, si vedono pedofili dappertutto, ci sono arresti per pedofilia di persone che poi vengono prosciolte, ma dopo essere state sbattute sui giornali come mostri, un sacco di gente finisce in galera, bambini vengono tolti ai loro genitori, asili vengono chiusi perché identificati come luoghi degli orrori, salvo poi dopo anni si scopre che non è successo assolutamente nulla. In questo clima di insomma, allarme sociale, panico morale sulla pedofilia, succede anche che Gad deve dare le dimissioni dal TG1. Questo lo dovresti raccontare tu, però, perché c'è anche questo caso che è collegabile a quello, la pedofilia. La pedofilia usata, l'allarme sociale, il panico morale sulla pedofilia usato come arma contro il nemico politico, perché abbiamo visto anche questo. Gad era direttore del TG1 e l'hanno fatto dimettere per una vicenda con degli attacchi strumentali collegati esattamente a questo clima che sto descrivendo. Vabbè, mi hai preceduto e posso, come dire, raccontarne con il sorriso sulle labbra, perché sono passati 21 anni e perché considero uno dei momenti più fortunati della mia vita quello in cui ho deciso di dimettermi da direttore del TG1. Ma è molto interessante, alla luce del racconto di questo libro, vedere i meccanismi per cui quando un giorno del settembre del 2000, 21 anni fa appunto, quasi, viene annunciata una grande inchiesta contro la pedopornografia su internet, gestita dalla Procura della Repubblica di Castellammare di Stabia, con centinaia di indagati e un misterioso russo a capo di una rete di vendita di bambini i cui cataloghi sono mostrati online. Io faccio la riunione di redazione del mattino del TG1, raccomando di trattare con molta cautela questa notizia, vista la sua scabrosità, in particolare nell'utilizzo delle immagini che non siano evocative, vengo rassicurato in questo senso. Al pomeriggio viene ripetuta questa indicazione, alle 7 di sera il TG3 trasmette delle immagini fornite dalla polizia postale, cioè dalla magistratura inquirente, che mostrano, sia pure pixelati, appunto, dei bambini su un catalogo. Allarmati da questo, diciamo ancora, mi raccomando, il TG3 ha fatto una cacciata, non replichiamola, nei nostri servizi quelle immagini vengono riproposte. Naturalmente, a proposito di teorie del complotto, molti amici hanno cercato di convincermi che questo fosse un agguato teso ai miei danni perché la mia nomina non era stata concordata tra i partiti, compresi quelli di sinistra, eccetera. Io penso invece di no, essendo molto scettico sulle teorie del complotto, sono convinto che la motivazione fosse di tutt'altro genere, ovvero che nella pigrizia intellettuale dei miei colleghi, quando una delle immagini ti arrivano dalla magistratura e dalla polizia, vuol dire che sono ufficiali e che quindi sì, il direttore può aver detto cautela, ma cazzo, ce l'hanno mandata loro e quindi vanno in automatico. Quindi assegno buona fede ai colleghi che hanno costruito questo, che è stato uno psicodramma, perché a seguito di questa trasmissione in diretta nel TG1 io sono andato a chiedere scusa perché non era l'ora di trasmettere quelle immagini che in realtà oggi, 21 anni dopo, i bambini hanno visto 100.000 volte molto molto più cruente ed esplicite. Scoppia un parapiglia in cui il Parlamento si riunisce, Silvio Berlusconi dichiara che ci sono dubbi sulla moralità di chi dirige il TG, una cosa divertente alla luce, diciamo, delle vicende di lui, ma anche la sinistra dice le scuse non bastano, al contrario interviene persino il Vaticano, Navarro Valls, portavoce del Papa, a mia difesa, dicendo le scuse erano più che sufficienti e il telegiornale di Lerner sul piano sociale è qualcosa che va mantenuto. Insomma, io capisco che da lì in avanti sarebbe stato un inferno e nonostante il Consiglio di amministrazione della RAI, per la voce di Zaccaria e Celli, mi dicessero guarda che se ti dimetti adesso per tutta la vita sarai quello dei pedofili, quindi ritira le tue dimissioni che il CDA aveva respinto, invece io grazie al cielo le mantenni. L'inchiesta finì nel nulla, quel russo non fu mai trovato, gli 800 indagati non hanno mai avuto un processo e quindi diciamo la testimonianza intorno all'isteria collettiva e al cavalcarlo, alla convenienza di cavalcarlo da parte della politica che dicevi tu, come dire, questo è un caso di scuola. Però come vi dicevo, non oso pensare alla fine che avrei fatto se fossi rimasto lì. Ho avuto una vita molto più felice e serena. Direi che se ci sono delle domande vostre è il momento, perché tra un po' andiamo a nanna. È meglio se vieni qua perché se no non si sente. Stanno registrando tutto, sai. Siamo tutti vaccinati qua. Ok, io no. No, ecco, nella seconda parte del libro, Illustri, per l'appunto le radici che hanno le fantasie di complotto, come stavate anche dicendo ora in questo momento, io vorrei spostare il baricentro su quello che pensi sia il futuro della fantasia di complotto, dato che, come fai anche a notare nel libro, sembra che intorno al novembre del 2020, in occasione delle election night in America, con la conseguente presa, chiamiamola così, del Parlamento del 6 gennaio, sembra che la fantasia di complotto sia arrivata a un nodo cruciale in cui comunque sta rimodellando le sue caratteristiche e si sta in qualche modo evolvendo verso qualcosa di nuovo. E alla luce della tua ottima ricerca, di cui ti ringrazio ancora una volta, vorrei sapere qual è la tua idea. Grazie. Allora, noi in questo momento siamo in piena fase post-QAnon, vale a dire che dopo l'assalto di Capitol Hill, QAnon si è riconfigurato, non si chiama più QAnon, alcune sue correnti si sono nazificate, nel senso che si sono accostate a un'estrema destra più tradizionale, altre sono andate più in direzione New Age, perché non abbiamo ancora detto questa cosa, che QAnon ha anche tutto un connotato New Age post-fricchettone fortissimo, che soprattutto nel 2020 è cresciuto tanto e che abbiamo visto ad esempio nelle manifestazioni in Germania, no? Cito un articolo che si chiama Nazi Hippies, che penso che basti solo il titolo, non hai neanche più bisogno di leggere l'articolo dopo quel titolo lì, perché la sintesi è perfetta. C'è questo incontro di mondo post hippie, post fricchettone, post controculturale, new age, wellness, eccetera, e l'estrema destra, che produrrà dei nuovi mostri, produrrà dei risultati. In questo momento tutto è in subbuglio, tutto in movimento, e io perché ho raccontato la storia di QAnon? Non solo perché era il sassolino che mi dovevo togliere dagli anfibi, no? Cioè perché ero coinvolto, ma perché ritengo che sia un paradigma. D'ora in poi le fantasie di complotto che vedremo saranno tutte post-QAnon, perché QAnon ha realizzato una sintesi come mai era stata fatta di tutte le correnti del cospirazionismo mai esistite. È un conglomerato di conglomerati di fantasie di complotto, e del quale qualunque altra fantasia di complotto dovrà tener conto. Per la prima volta si sono incontrate alcune fantasie di complotto che erano rimaste sempre separate, altre avevano già realizzato delle convergenze, ma alcune non erano mai state insieme. JFK e i vaccini, gli UFO e i pedofili, c'è tutto dentro QAnon. Ora QAnon evapora, diventa un'altra cosa, ma quella sintesi che è stata realizzata rimane lì, sedimenta. Il passato non scorre via, il passato sedimenta. Ok, un'altra immagine potremmo usare, che il passato non è alle spalle, è sulle spalle, lo abbiamo sulle spalle, continueremo ad avere QAnon. Soprattutto è paradigmatico, però, non solo per i contenuti che ha elaborato, per le ricombinazioni e per la presa che queste ricombinazioni hanno avuto sull'immaginario, ma per le dinamiche che lo hanno creato. Finché non risolveremo il problema di come funziona la comunicazione oggi, sul fatto che le nostre interazioni online sono pilotate da algoritmi perché possano essere estratti più dati sulla nostra navigazione, su quello che ci piace, quello che non ci piace, quello che ci diciamo tra noi, e tutto questo modello di business basato su, appunto, sui big data, sull'estrazione continua di surplus emotivo, come lo chiama Shoshana Zuboff. Finché non aggrediremo questo nodo, noi cose come QAnon continueremo a vederle succedere. QAnon è semplicemente la cosa più appariscente, però in realtà tutta la nostra comunicazione è continuamente pervertita e drogata da questi meccanismi che funzionano continuamente 24 ore su 24, 60 secondi al minuto, in tutte le nostre interazioni, fatta con questo aggeggio qui o con quell'aggeggio là, ok? Tutta la nostra comunicazione in questo momento, per chi sta sui social o usa le app anche di messaggistica come WhatsApp, è tutta basata sul data mining e il modello di business del capitalismo di oggi. La cosa che cerco di spiegare nella prima parte del libro è che questo modello di business è teratogeno, cioè crea mostri. Non è il sonno della ragione, come diceva Goya, che crea i mostri, ma è l'incessante veglia di una ragione ridotta a razionalità strumentale. Questo oggi sta creando mostri. E quindi continueremo a vedere succedere cose, e siccome sono sempre più estreme, forse QAnon lo ricorderemo come una cosa relativamente innocua andando avanti, ed è il motivo per cui non si può rispondere facendone la parodia, perché non è possibile esagerazione. Una cosa che Eco ci ha insegnato nel pendolo di Foucault: non puoi fare una parodia di una fantasia di complotto, perché la parodia ridicolizza tramite l'eccesso, ma non è possibile un eccesso, perché le fantasie di complotto ringlobano qualunque eccesso. Se solo 5 anni fa qualcuno ci avesse detto, il 6 gennaio del 2021, il Congresso degli Stati Uniti sarà occupato da un'orda di centinaia di persone convinte che il mondo sia governato dai pedofili satanisti e che ci siano centinaia di basi sotterranee nei soli Stati Uniti, dove milioni di bambini, i cosiddetti bambini talpa, sono tenuti schiavi e vengono violentati e vengono dissanguati, e tra quelli che li dissanguano ci sono Tom Hanks, Beyoncé, Madonna, Oprah Winfrey, Barack Obama, Michelle Obama e tutta questa gente qua. Se 5 anni fa ci avessero detto sta cosa qua, dicendo che di cosa ti sei fatto, e poi è successo pari pari. 5 anni fa sarebbe stata una parodia, questa sarebbe stata una parodia, e si è realizzata pari pari. Stiamo andando verso fenomeni sempre più estremi, non è possibile contrastarli con l'esagerazione usata come arma critica, perché non è un'arma critica, perché loro credono a tutto. Nel pendolo di Foucault, Belbo, Diotallevi e Casaubon inventano la meta fantasia di complotto più delirante che gli possa venire in mente e viene creduta vera. Così funziona. Brevissimo. E, prima di tutto, rispetto a quello che dicevate prima sul rapporto tra realtà reazionarie e che non si fanno problemi a utilizzare le nuove tecnologie, forse credo che sia giusto aggiungere anche situazioni come l'ISIS o Al-Qaeda, che non si sono mai fatti assolutamente problemi a usare i social o i nuovi mezzi, la televisione, per fare propaganda e diffondere il loro messaggio. Poi volevo chiedere se è possibile avere una risposta all'ultima parte del libro, la seconda parte del libro. Come è nata l'idea di parlare del fatto che tutto si svolgesse all'interno di un sogno? Ovvero, veramente un sogno ha ispirato quest'idea, oppure è un espediente narrativo per aggirare uno scoglio, lo scoglio di cui parla lei nell'altra parte del libro? Allora, come si diceva nel dibattito precedente, la sperimentazione è quella, consiste nello scrivere oggetti narrativi non identificati, quindi raccontare storie con ogni mezzo necessario, tecniche letterarie usate in una ricostruzione d'inchiesta, ma anche cose, cioè, tipo l'espediente onirico usato per fare inchiesta, che sono cose che di solito non si vedono. Questo è un libro fortemente ibridato, ci sono 2 capitoli famigerati scritti alla maniera di Nanni Balestrini senza la punteggiatura. La casa editrice Allegra ha ricevuto alcuni mail di lettori e lettrici che dicevano: volevo segnalare che nella mia copia c'è un refuso, ci sono 2 capitoli da cui è saltata completamente la punteggiatura, no? E allora a spiegare, no, ma è voluto, hanno ragione, no? No, ma è a spiegare che quella scelta serve a rendere l'accelerazione vorticosa degli eventi, degli accadimenti avvenuta durante l'emergenza pandemica sul versante QAnon negli Stati Uniti. All'inizio io dico: ci sarebbe voluto Nanni Balestrini per rendere una simile concitazione, e subito comincio a scrivere alla Nanni Balestrini imitando la violenza illustrata, e il capitolo si chiama La virulenza illustrata. Però ci sono altre sperimentazioni, ad esempio alcuni non si accorgono che tutta la prima parte del libro è scritta al trapassato prossimo. Era stato, erano andati, non furono, ma erano stati. Tutto il libro è una simulazione di una ricostruzione retrospettiva di tutto il lavoro fatto fino a quel momento, ricordato da un futuro imprecisato che ancora non c'è. Ok, quindi c'è una sperimentazione sui piani temporali e sui tempi verbali. Però la cosa che effettivamente è più azzardata in assoluto è usare la cornice del sogno per fare inchiesta, per rendere conto dei risultati di un'inchiesta. Quindi cosa mi è venuto in mente? Ho scritto al figlio di Umberto Eco, Stefano Eco, e gli ho chiesto il permesso di poter recuperare e riutilizzare nel mio libro i 2 personaggi chiave del pendolo di Foucault, che sono i 2 editor milanesi, Belbo e Diotallevi. E gli ho chiesto di poterlo fare, gli ho spiegato come li volevo usare. Lui mi ha dato la sua benedizione, ha detto: anzi, saremo ben contenti, e leggerò, eccetera. E quindi nel libro io sogno di trovarmi in una delle ambientazioni del pendolo di Foucault, è un vero e proprio spin-off del pendolo di Foucault. Il bar Pilade, in cui avvengono molte scene del romanzo di Eco, io ricreo il bar Pilade e mi ritrovo in sogno a parlare con Belbo e Diotallevi, a cui ho spedito il dattilo scritto, perché loro sono degli editor, cioè quindi vagliano proposte editoriali. Invece di proporlo ad Alegre nel sogno, lo propongo alla Garamond, che è la casa editrice fittizia del pendolo di Foucault, e loro mi danno appuntamento e mi ritrovo con loro al bar Pilade e gli racconto tutta la seconda parte del libro, cioè quella genealogica in cui sequenzio il genoma di QAnon. Chiaramente, essendo un sogno, possono capitare le cose più disparate, no? E quindi è fiction nella cornice, però tutte le cose che io dico a Belbo e Diotallevi sono documentate e riscontrate, tant'è che ci sono le note dove esplicito ogni fonte. Quindi c'è questa ibridazione di fiction nella cornice, di non fiction nel contenuto, che a me è sembrata efficace, appunto, raccontare una storia con ogni mezzo necessario. In quel momento ho sentito la necessità di raccontarla in quel modo lì, perché, come si diceva prima, ci muoviamo nelle terre del mito. Il mito è in qualche modo assimilabile al sogno, anche lì non vale il principio di non contraddizione, no? Nel sogno. E quindi ho detto, mobilitiamo proprio i topoi della letteratura onirica, dei resoconti di sogni, quelli ad esempio che fa Freud anche nei suoi racconti dei casi che ha seguito, cose del genere, e proviamo a piegarli all'esigenza di raccontare la genesi di QAnon, che in fondo è un lungo incubo. È un lungo incubo che comincia nel XII secolo, QAnon, dal punto di vista dei suoi argomenti, delle sue tematiche, delle sue storie e sottostorie. Inizia con la prima volta in cui compare l'accusa del sangue in Europa, che è nel 1144, rivolta contro gli ebrei, perché in realtà Norman Cohn spiega che delle versioni prototipiche di accusa del sangue furono usate dai romani contro i cristiani, contro i primi cristiani, dopodiché i cristiani le riprendono e le usano contro gli ebrei. Ok, però non volevo andare così lontano perché avrei un po' perso focus, quindi inizio dalla prima volta in cui in Europa si affaccia l'accusa del sangue contro gli ebrei, che è in Inghilterra nel 1144. Da quel momento è una sorta di lungo incubo, di lungo sogno maligno fatto dalla civiltà occidentale, dalla cultura europea. Allora forse ho pensato, per raccontare questo lungo incubo anch'io devo farlo in sogno. E quindi c'è questa lunga parte, che è un dialogo che avviene in sogno, ogni tanto mi sveglio e poi mi riaddormento e ritorno e riprendo il sogno da dove ero iniziato prima, poi succedono cose strane. Chiaramente chi ha letto il pendolo di Foucault, quella parte lì si gode anche tutte le allusioni, i riferimenti, le strizzate d'occhio a quel romanzo, però ho fatto la prova con lettrici e lettori di prova che il pendolo di Foucault non l'hanno letto e hanno detto che era godibile lo stesso, e quindi ho proseguito in quella direzione. Però per dire che il libro è nella classifica della saggistica, però potrebbe essere anche in quella della narrativa, nel senso che è fortemente ibridato e difficilmente classificabile. È proprio quel tipo di operazioni che cerchiamo di fare sia con la collana Quinto Tipo sia con molti libri di Wu Ming, collettivi o solisti. L'ultima, perché qui gli anziani devono andare a dormire. Vai. Bella camicia. Ti ringrazio. Renato. Ok, allora, non mi riferisco al libro, ma a quanto ho ascoltato stasera dai relatori. E mi sembra, così, di poter dire che si potrebbe avere la tendenza ad autolimitarsi quando si indicano semplicemente le componenti parodiche di quanto si ravvisa, nel senso che si potrebbe tendere a sottovalutare l'aspetto invece di capacità generativa ontologica dell'aspetto mitopoietico. Mi riferisco ovviamente agli studi di qualche anno fa fatti all'Università di Warwick dal Centro di Ricerca Cibernetica, dall'Unità di Ricerca Cibernetica, e alle formulazioni che poi hanno generato oggetti come il concetto di persezione, ma soprattutto il numogramma, cioè una sorta di teorizzazione algoritmica che riesce a dare il senso di quelle che tu indicavi prima, cioè di quelle concatenazioni di mitopoiesi. Però vorrei sottolineare che secondo me non dovremmo limitarci a far emergere o evidenziare il lato grottesco, perché ormai il grottesco è in atto, cioè è ontologia. D'altronde al Capitol Hill abbiamo visto che accadeva qualcosa, capisci? Quindi, ecco, volevo giusto dare uno spunto in questa linea, grazie. Sì, no, ma garantisco che nel libro non si sottolinea solo il lato grottesco, ma cioè, si parla proprio di quanto questa cosa sia ormai innervata nelle stesse dinamiche del comunicare nella nostra società di oggi, e soprattutto che, come dicevo prima, queste concatenazioni rispondono a dei bisogni, a dei desideri, li intercettano e danno delle risposte. Dovremmo farlo anche noi, accettare quella sfida e intercettare quei nuclei di verità che ci sono e che però poi vengono intercettati all'interno di concatenazioni di senso che vanno in quelle direzioni lì. Noi dovremmo accettare la sfida, intercettarli e fare andare in altre direzioni. Quindi garantisco che, anzi, c'è una battaglia lungo tutto il libro contro chi sminuisce, fa vedere che sono solo cose grottesche o reazioni di questo tipo, contro i foratori di palloncini, che è questo concetto che uso per definire i debunker, no? Sul fatto che forare il palloncino, no, il problema non è quello lì e non può essere quella lì la prassi, e soprattutto sul fatto che spesso il debunking difende il sistema, difende lo status quo. Quindi quando il cospirazionista attaccato dal debunker risponde accusando il debunker di essere un baluardo del sistema, spesso ci prende, perché spesso è vero, nel senso che molti debunker sono dei difensori del consenso neoliberale e poco altro. Ecco, no? Quindi garantisco che non c'è uno sminuire o un prendere per il culo queste cose, anzi lo sforzo è stato tra l'altro di empatizzare per quanto possibile con chi crede anche alle cose più assurde. L'unico punto in cui mi sono fermato, in cui non mi era possibile immedesimarmi, è stato con Tarrant, l'autore della strage di Christchurch in Nuova Zelanda. Lì ti devi fermare, non puoi empatizzare. Un eroe. Sì, infatti c'è il tentativo di imitarlo, è la gamification del terrore con Tarrant come role model. Lo racconto delle mie reazioni quando ho visto il suo video, perché l'ho trovato su un canale Telegram tutto apologetico nei suoi confronti. Ho trovato quasi tutto quello che era stato rimosso dai social, perché è quasi tutto su Telegram. Del resto su Telegram puoi iscriverti al canale pubblico dell'ISIS. Cioè, prima o poi Telegram qualche problema se lo dovrà porre, cioè, nel senso che la situazione sta diventando veramente, veramente inquietante. Ecco. Basta. Grazie a tutte e tutti.